Radio 24. Libera la voglia di fare. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Come cosa vuol dire? Ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Anche ancora qualche chilometro, poi anche il Gran Premio di Azerbaijan andrà in archivio con il suo risultato. Ricciardo, Stroll, Bottas, Vettel, Hamilton, questi primi cinque. Quando manca un giro, saluto subito Leo Turrini. Ciao Leo. Come andiamo? Benissimo, siamo piegati. Leo, siamo piegati da un Gran Premio in cui facciamo fatica a mettere insieme. Non è ancora finita, soprattutto Leo, per quei due. La corsa più pazza del mondo, riesci a riassumerla? Io penso che dovremmo avere un incredulo vincitore di un Gran Premio incredibile, cioè Ricciardo, che è un ragazzo simpaticissimo, se lo merita, per carità, ma insomma ha ricevuto un regalo. Aspetta che c'è Hamilton che mette il DRS per attaccare Vettel. Ma non ci arriva, l'ultimo non ci arriva. Giro. No, siamo nella zona adesso delle curve. Ma dai, Bottas si sta rallentando apposta. Insomma, diciamo che ne abbiamo viste di ogni qui a Baku. Io sono quasi senza fiato e senza parole. Ma questa è Formula 1 o no? Perché poi ci dividiamo, ci siamo divisi, ci siamo divertiti, per carità, però. Sì, no, devo dire il divertimento è stato assicurato, ma assomiglia molto al wrestling. Tra l'altro io avrei anche tante cose da dire sui commissari, perché non è possibile che Bottas per quella manovra al via ai danni di Raikkonen non sia stato sanzionato, e non è possibile che per il suo fallo di provocazione Hamilton, che frena in faccia a Vettel in presenza di safety car, non abbia subito nessuna sanzione, invece Vettel sia stato punito. Allora la raccontiamo rapidamente per chi è in macchina e non l'ha vista. Ventesimo giro circa. Io sto guardando qui perché siamo quasi a bandiera a scacchi, è una cosa delirante. Regime di safety car. Passo per la testa di Ricciardo. Ma tu, che... secondo me passa che crede che sia Natale. Adesso smonterà dalla macchina, cercherà l'albero di Natale, Babbo Natale, ma non ne troverà. Ha vinto Ricciardo. Guarda adesso, pensa che arriva secondo Stroll. Attaccato da Bottas, che arriva secondo proprio in volata, nel vero senso. Stroll e Vettel ce l'ha fatta precedere Hamilton. Questo, quindi Bottas secondo e Stroll terzo. La notizia buona, allora vi do la classifica del mondiale, è che Vettel ha guadagnato due punticini su Hamilton. Vettel 153, Hamilton 139, quindi 14 lunghezze di distacco. Questo direi che da un punto di vista Ferrari, quindi italiano, patriottico, come vuoi tu, è una notizia bellissima, perché veramente per come si era messa c'era davvero il rischio di una beffa colossale. Leo, comunque sarà difficile da raccontare questa corsa. Resta, però mi fate raccontare risultato. La ruotata, racconta, ero molto interessato invece a capire da Leo che cosa ne pensa, perché io credo che Vettel abbia sbagliato tutto in quel momento, non si può farsi prendere dal nervo, però magari voi siete dei maestri, mi raccontate il contrario. Guarda, allora bisogna dire una cosa, che quello che fa Hamilton nei confronti di Vettel è una canagliata tipica dei piloti che, come diciamo noi emiliani, amano fare gli sboroni, no? Sì. Nel senso che c'è la safety car, tu sei davanti, chi tampona sempre torto, e quindi lui più di una volta ha provocato Vettel in presenza di safety car, gli frenava di brutto davanti e così via. E questo è molto discutibile, se non altro da un punto di vista etico. Vettel lo ha toccato, dopodiché gli si sono scappati i cavalli o gli è andata giù la catena, come volete, lamentandosi, lo ha affiancato più. E gli ha dato una ruotata. Il classico fallo di reazione nel calcio, hai capito? Però io dico che gli è anche andata bene, stop and go di 10 secondi, di fatto. Togliergli la patente, no? Però, insomma, guarda, carissimo Leo, nel calcio sai che il fallo di reazione è peggio di qualunque altra casistica di fallo, ti prendono e ti mandano fuori. Sì, però quello che voglio dire io, poi dopo, per carità, ognuno ha diritto alla sua opinione, anche quello che fa Hamilton è stato sotto gli occhi di tutti, Cioè non è stato il fallo del difensore che in area non visto rifila un cazzotto nella pancia. È una chiara provocazione, è una chiara provocazione. E allora gliel'hanno fatto passare, come l'avevano fatto passare in partenza Bottas su Raikkonen. Quindi io adesso non voglio teorie di complotto. No, ma è difficile risalire le cose. Hanno sbagliato tutte e due, cioè quello a frenare ha fatto una canagliata, questo gli è andata giù la catena e si è messo a protestare in mezzo alla pista. Però guarda, c'è un aspetto buono in tutto questo. Cioè? Che abbiamo sentito per mesi Hamilton e anche Vettel dire: che bello il nostro duello così leale, non vediamo l'ora di trovarci ruota a ruota, no? Perché noi viviamo per questo, siamo piloti, l'ebbrezza del rischio, il brivido e tutto, eccoli qua. Alla prima circostanza che sono ruota a ruota si sfanculano rovinosamente in diretta mondovisione. E guarda, ve lo dico anche in chi è in coda sulla Piero Cormano, sappiatelo, questo è solo l'inizio, perché è un campionato così tirato. Chissà cosa succederà. Ma allora, io ti chiedo chi esce con i nervi meglio da questo primo grande confronto, the big clash fra Vettel ed Hamilton, perché ho l'impressione che non sia Vettel, anche se ha preso i due punti, però al primo vero confronto gli è partita la catena, come dici te. No, gli è andata giù la catena, però tu Giovanni mi sembri membro del PAV, partito anti-Vettel. No, assolutamente. Ma scusami. Però trovo inconcepibile in mezzo a un Gran Premio fare una cosa così. No, ho capito, ma io ti ho detto che è un fallo di reazione, mica sto dicendo che ha fatto bene, non voglio essere frainteso, Però ripeto, bisogna leggere tutte e due le cose, cioè se uno ti dà un pestone apposta, poi tu reagisci, sbagli perché hai reagito, ma quello che ti ha tirato il pestone non è che sia un angioletto. No, chiaro. Siamo d'accordo su questo, no? No, si è comportato da stronzo, come lui è, d'altra parte, agonisticamente parlando, non do un giudizio sulla persona. No, ma guarda, io ci sono già passato con dei personaggi grandissimi, certo, tipo ma sì, ne ho senso. Bisogna sempre cercare di capire anche chi è che innesca la situazione al limite l'eventuale reazione, perché sennò è troppo facile. Io non lo dico da ferrarista, questo lo dico da vecchio bacucco, dato che si sapeva a Baku che segue la ecco Formula a proposito 1. Di Baku, possiamo fare una petizione per cancellare questa pista dalla mondiale di Formula 1? Allora guarda, chiaramente è indecente, è una pista, che non ha ragione di esistere, è una follia alla quale peraltro dobbiamo, devo dirti, due ore che iniziamo a raccontarle, non ci bastano due ore, certo, perché veramente è successo di tutto, tra detriti in pista, quattro safety car, ma è come il Monopoli, Leo, imprevisti e probabilità, no? Il wrestling, no? Sembrava di essere a una di quelle serate dedicate appunto al wrestling, e alla fine ha vinto Ricciardo, che infatti ride sempre come certi personaggi del ring americano. Anche la Stroll non sa esattamente che cosa è capitato, è stato passato sulla linea d'arrivo e ha perso il secondo posto. Sul traguardo Stroll secondo me stava già festeggiando il secondo posto. Alzi le mani dal manubrio e questo mi innervosisce ulteriormente, perché vedere Bottas secondo dopo quello che ha fatto ai danni del santo bevitore, veramente. Il santo bevitore è un altro capitolo. Che mi amareggia moltissimo. Ma ti ho detto, se passa Raikkonen, il gatto nero che gli incrocia la strada, si tocca. È stato sfortunato. Oggi è stato a un certo punto accanimento terapeutico tenerlo in pista, diciamo la verità. È successo tutto a lui. Comunque ci sarà tanto da discutere. Ti vediamo su Sky tra poco. A presto ragazzi, maestro Torrello, prestissimo. Ciao. Allora sì, ci sarà tanto da discutere, perché tra l'altro tutto quello che è successo ci impedisce di capire, almeno a noi mortali, se la Ferrari ha subito il controsorpasso dalla Mercedes a livello di prestazione o no, perché il dato del sabato era inquietante. Qua non possiamo capirlo. E noi non possiamo capirlo, ma magari Umberto Zappelloni dopo le 17:30 sarà in grado di darci la chiave di lettura. A mente un po' tecnica, più fredda. Intanto mi risulta che tra poco, dopo la pausa per le informazioni sul traffico, parliamo dell'altro grande evento motoristico di giornata. A proposito di chi dice Valentino, che d'estate la domenica non c'è niente. Oggi Valentino Rossi che ha vinto ad Assen. Non abbiamo dato i numeri, allora 800 24 00 24, chiamate, prenotatevi, voglio sapere da voi cosa ne pensate anche di questo folle Gran Premio di Baku, cosa ne pensate di Valentino Rossi, se ha ragione Vettel o ha ragione Hamilton. Poi vi daremo delle novità clamorose su Donnarumma, che perché fa? Oggi cosa c'è fa? Stato movimento anche sul caso Donnarumma, lo faremo alle 17:45. Non abbiamo detto nemmeno che l'Italia è in semifinale dell'Europeo dell'Under 21. Beh, questa lo so, sappiamo da ormai è preistoria, superata da tutto quello che è successo oggi. C'è il traffico, torniamo subito a 800 24 00 24. Convocati. Tutti convocati. La S di Valentino Rossi che torna a vincere. Torna a vincere, Rossi c'è. Danilo Petrucci subito dietro. E poi Marquez con Crash, lo vedo vizioso. In quinta posizione è tornato a vincere. 300 e fischia giorni, Valentino Rossi è tornato a vincere. Valentino Rossi è tornato a vincere. La cosa che mi rende più felice è essere tornato a vincere. Io corro in moto e lavoro tutto l'anno per questo feeling, per quello che si prova quelle 2-3 ore dopo la gara. Dopo un anno è ancora più bello. È la decima vittoria Assen mia, dopo aver vinto 10 volte a Barcellona, sono contento ed è molto importante anche per il campionato, perché adesso siamo tutti ancora più vicini. L'anno scorso, me lo ricordo benissimo, ero in testa, è stata interrotta la gara, volevo a tutti i costi rifarmi e mi ero preparato tutto, sono stato tutta la gara calmo, quando ho visto che Zarco non ne aveva più, Valentino è andato davanti, ho cercato di attaccare, stavo lì a 4 giri dalla fine, lì dovevo chiudere il gas, però mi sono trovato quei 3-4 decimi da recuperare e poi siamo arrivati in volata. Sapevamo che in sciuto facevamo un po' di fatica, comunque eravamo là vicino alla vittoria, ma comunque Valentino il suo passo era un po' meglio di noi, anche Danilo. Questa pista da solito facciamo fatica, usciamo 11 punti solo dietro di Dovizioso che è il primo. Allora, questo è il riassunto 800 24 00 24. Abbiamo goduto oggi all'ora di pranzo, Gran Premio di Olanda ad Assen, la vittoria di Valentino Rossi, semplicemente leggenda, diciamo. Allora, non vinceva da più o meno un anno, aveva vinto al Montmeló nel giugno del 2016, non vinceva da 18 gare, trionfo numero 115, mondiale completamente riaperto. Abbiamo due carissimi ospiti, uno è Roberto Ungaro, un amico. Ciao Roberto. Amica, la nostra voce. Ciao Giovanni, ciao Carlo. E ciao, l'altro Robin. È Carletto Pernat, che fra un po' assumeremo come nostra voce anche lui. Allora, ciao ragazzi, qua è da Assen, ciao a tutti. Ciao anche a te. Allora Roberto, da dove partiamo? All'università, per dire chi era il direttore, il dottore vero. Mm. Decima volta che vince lì vincono solo quelli veri. No, devo dire che ha veramente amministrato, ha gestito, ha condotto, e soprattutto gli ultimi 8 giri, quando è arrivata la pioggia, era lì davanti, grossa responsabilità, è stato lì davanti, non è rientrato ai box. Quella è una situazione pazzesca, difficilissima, perché sei tu che guidi il gruppo, tutti ti seguono, e lui ha aperto le danze, ha tenuto, ha resistito agli attacchi di Petrucci, ha fatto veramente una gara maiuscola. Cioè è il Valentino che conosciamo e l'ha ribadito nella sua pista, in una di quelle piste che contano. Si riapre il mondiale, sempre 5 i protagonisti, Vignales non l'ha buttato via, però 1-0 pesantissimo. E in un campionato dove non c'è certezza, perché la Michelin ci regala questo, che comunque è spettacolo, c'è una certezza che è rossa, è la Ducati, grazie a un Dovizioso che è stato attento, comunque ha portato a casa punti e si ritrova davanti in campionato. Sì, però che era assolutamente impensabile. Lo zero di Vignales pesante, lo zero di Vignales pesante. Anche perché tra l'altro il secondo a me ha molto impressionato, fa bene Roberto Ungaro a sottolinearlo, lo chiedo a Carlo Pernat, Valentino Rossi in quei 3 giri da meno 8 a meno 5, perché dietro aveva dei piloti più veloci di lui in quel momento. Uno dice, vabbè, Alemán sei caduto, adesso fai il ragioniere, e invece no, lui era uno squalo e sentiva l'odore del sangue, no, Carletta? Ma guarda, io lo paragono a una vittoria Alfieri, qui volli fortissimamente, perché questa, guarda, è una vittoria che lui ha cercato in tutti i modi, L'ultima che ha vinto era la decima volta che vinceva Barcellona, vi ricordate il numero? Sì, questa è la decima volta, di... quindi c'è anche un'analogia. Però guardate, questa vittoria lui la voleva a tutti i costi, l'ha preparata nel weekend, avete visto che ha fatto un weekend bellissimo, in gara è stato favoloso. Devo dire che Petrucci è stato sfortunato, perché bisogna che metti i puntini su lì, perché ricordatevi che Petrucci all'ultimo mezzo giro è stato prima ostacolato da Barberà, all'ultimo giro è stato, se avete fatto caso, quasi la terz'ultima curva è stato ostacolato da Rins, involontariamente, perché poi ho parlato con Rins e Rins è venuto a scusarsi con Petrucci, anch'io, e gli ha detto non ha messo la bandiera, infatti non aveva messo la bandiera. Si è lamentato Petrucci in maniera anche giusto, un po' maliziosa, è molto amico di Valentino, quindi di sicuro non c'è polemica. Sì, però... No, però ricordatevi, guarda, io dico, devo essere sincero, sai quanto io tifo per Valentino e quanto spero che vinca la decima, cosiddetta tra virgolette. Era una gara che Petrucci la poteva vincere se non c'era sta roba qua, perché qualcosa di più aveva. Tant'è vero che poi sono parlato anche con Valentino, ero giù. Lui ha alzato il pugno per la vittoria. Ragazzi, Petrucci è arrivato al 0065, ha rischiato di vederselo passare lì, Non se n'era mica accorta, fateci caso. Ha tirato il pugno con Petrucci che lo stava quasi passando, pazzesco, bellissimo, arrivo così. Hai capito, Roberto? È così, è la cosa che mi è piaciuto, che in bagarre Petrucci non aveva troppa titubanza, cioè ci ha provato, lo ha affiancato, si è fatto vedere più volte. È vero che passare Valentino non è facile, ma soprattutto perché è Valentino e non vuoi fare l'errore. E in quelle condizioni, con la pioggerella, che è un attimo stendersi, pensa cosa sarebbe stato allungarsi e buttare giù magari Valentino. Eppure lì non ha avuto il braccino Petrucci, quindi maturo, grande, ci ha provato. E soprattutto ha fatto vedere che anche con l'asciutto, nella prima parte di gara, era lì, protagonista, quindi vuol dire che ormai è pronto Petrucci, fa parte dei grandi. E poi mi piace perché lui l'ha detto, prima dei soldi voglio una moto competitiva, io voglio stare lì tra i grandi. Guarda, io ricordo ancora su Petrucci un'intervista che di qualche anno fa su un giornale che dirigeva Roberto Ungaro, lo ricordo bene questo, lui disse: o tra qualche anno riesco ad essere competitivo e ad essere con i migliori oppure smetto. Confermi? È vero ed è così, e lo sta dimostrando. E poi rimane comunque pane e salame, perché Petrucci è un ragazzo d'oro sotto quel punto di vista. Non se la tira, non è un pilota che fa richieste impossibili. E lui ha solo un obiettivo: riuscire a vincere e a dimostrare che può far parte di quei grandi. E la stoffa ce l'ha, ha una moto competitiva, il suo team lo ama, perché tutti i ragazzi lo amano, lui contraccambia, e quindi anche in questo momento di mercato piloti è difficile andare a portare via un Petrucci in un team come il Paramag, dove lui è. C'è anche da dire che la moto è competitiva, perché non è una Ducati clienti qualsiasi, è una Ducati di quelle vere, e sappiamo quanto va forte, ma tutto gira nel verso giusto, c'è solo da aspettare il grande risultato, e Petrucci se lo merita, il primo gradino del podio. Tutto gira nel verso giusto a parte Rins e le bandiere azzurre. Sì, oggi l'avrebbe vinta probabilmente senza quell'ultimo giro e mezzo, però sì, però le gare sono fatte così. Poi vi faccio sentire una cosa di Valentino Rossi in chiusura, voglio sapere cosa ne pensate voi che vivete di motociclismo. Ma parliamo anche dell'uomo di Carletto Pernat, cioè di Annone. Ci vorrebbe la donna più che lui, no? Me l'aspettavo. Cosa succede? Bisogna anche dire un po' le cose poi come vanno, fuori dai denti. Diciamo, purtroppo Suzuki non ha azzeccato il progetto. Hanno sostituito il responsabile, il project leader, ne hanno messo, perché potessi sostituire a metà campionato un project leader vuol dire o c'è un brutto male o ho sbagliato, un brutto male non ne ha, per cui ho sbagliato. Hanno messo Sara Sanchez, che oggi conosce bene, che era un grande progettista dei tempi di Capirossi della Suzuki, vi ricordate? È una moto che ai primi giri non va piano, infatti oggi Andrea se gli è servito molto, ha capito di essere ancora un pilota, perché qualche dubbio aveva anche lui, onestamente, diciamoci come stanno le cose. Poi purtroppo quando cala la gomma la moto va nella problematica, non ha più setup, balla un po' tra le parti, lì è problema del motore, non si possono cambiare perché per regolamento ce n'hai a disposizione un certo numero piombato, e si sta lavorando per il prossimo anno, però sarà un lavoro duro, anche perché francamente la Suzuki a livello elettronico avevo sempre lavorato con Mitsubishi, 2 anni che lavoro con Marelli, e c'è da lavorare. È una scelta che è stata fatta così, evidentemente l'importante è che Andrea non si butti giù, e capisca ancora di essere un pilota, quello vincente, un pilota lo è, ma vincente è un'altra cosa. I primi giri l'ha dimostrato, purtroppo sì. Dopo la moto è quella che è. Non sarà una grassa, sarà una stagione che sarà così, ve lo dico già, lo dico prima, speriamo nella prossima. È un protagonista che per il momento l'abbiamo un po' perso come protagonista. Resta lì Suzuki sicuro? Si parla di appunto futuro? Ragazzi, guarda, il contratto va di 2 anni, è un contratto blindato, io credo che assolutamente non ci siano possibilità di andare via, né di essere mandato via, capito? Ci sono anche due soluzioni, attenzione. Per cui credo che sia una storia che continuerà, c'è qualche offerta, evidente, la Priglia, ad esempio, è una casa che ha bisogno di un pilota italiano. Tra l'altro ha richiesto Petrucci, attenzione, la Priglia gli ha offerto anche una bella, diciamo, sommetta, solo che Petrucci ha detto non ci penso nemmeno, ma non perché si chiami Aprilia o per i soldi, perché sta dov'è, anche perché, attenzione, per un breve futuro e un prossimo futuro avrebbe anche la possibilità di andare in Marlboro per quello che sta facendo, scusate, Morris nella squadra ufficiale per quello che sta facendo, quindi sai, lui vede anche una bella carota davanti, Conviene stare lì dove è Cartone Rosso, certo, anche perché Lorenzo mi pare che sia veramente, anche oggi ha trovato delle scuse un po' così. C'è stato un momento che mi scappava un po' da ridere quando lì dal muretto vedevo Lorenzo e Iannone in undicesima posizione, uno vicino all'altro, e mi dicevo, ma cosa avete cambiato a fare voi due? Se rimanevate dove eravate era meglio, no? Sì. Ora lo dico a livello battuta, però non è stata una gran... alle volte lasciare le mani ferme si fanno meno danni, dicevano gli, gli antichi. Vi devo far sentire questa cosa qui, però, perché a me veramente ha fatto ridere, ma voi sicuramente, come Leo Turrini prima, saprete darmi la giusta chiave interpretativa. Allora, dopo gara, Valentino Rossi che parla di Zarco. Zarco tocca invitarlo al ranch, così vi date un po' di sportellate e poi state un po' tranquilli. Io però oggi ho capito che Zarco non è cattivo, è che proprio non è capace, no. Perché cioè, non capisce la distanza con le altre moto, e perché non lo so dove voleva andare. Allora, Roberto. Ha un po' esagerato, Vale qui che lui è un politichese perfetto, ha un attimo esagerato, perché è vero che l'ha puntato, però... Non è che Vale ha chiuso la traiettoria e Zarco non ha gestito la sua accelerazione nella traiettoria in cui era. È vero che proprio l'ha puntato e gli è andato addosso. Però trovo che non sia felice dire non è capace in quel contesto. Ha fatto vedere la sua tuta con il segno della goma di Zarco. Sì. Ha detto che gli manda la fattura se non diventa di nuovo pulita. Però vabbè, c'è anche da capire per un Fuki che si trova lì e c'ha voglia di far vedere. Sono cose secondo me normali in una gara. Ma io volevo solamente dire una cosa: siccome per gli ascoltatori di Radio 24 è un privilegio avere Carletto, allora io volevo provocarlo e chiedergli dove piazzerà l'anno prossimo Iannone, che magari si potrebbe anticipare. La separazione da Suzuki. Carletto, diccelo, no. Dai, ragazzi, veramente, ma guarda che dai. Io sono uno, lo sai, che se devo dirti una cosa te la faccio anche capire se non te la dico. È chiaro che l'idea era, ci stava, però non si può fare e non si deve fare, per cui ti posso confermare ufficialmente che rimarrà anche il prossimo anno in Suzuki. Quindi un ritorno in Pramac con quella bella moto competitiva è utopia? No, non è utopia, è qualcosa di impossibile. Okay. Te lo dico, guarda, veramente non direi delle cose non giuste e non corrette. Se fosse qualche spiraglio, è chiaro che c'è gente come la Priglia che cercano, ti ripeto, pilota italiano, no? Certo, quindi certo. Al limite c'era questa possibilità, però no, non si può fare. Cioè, è più facile che cambi fidanzata piuttosto che moto. Mi auguro di cambiare più moto io, dal punto di vista maschile, che fidanzata. Che almeno se ne parla. Perché bravo. Dovrebbe? Direi di sì, bravo. Sì. Va bene, insomma. Comunque guarda, quella di Valentino è stata una cosa simpatica, ragazzi, l'ha detta alla Valentino, un po' piccato, perché poi sai, ragazzi, incomincia a levarsi i sassolini dalle scarpe anche lui, in un campionato dove i primi quattro hanno già collezionato 6 cadute, che io non mi ricordo la storia o qualcosa del genere. No, vero. Ma non lo ricordo. Quindi sai, oggi le gomme non c'entra niente, perché dai, in questo circuito hai 2 frenate, quindi le gomme non è che andassero in tensione o avessero dei problemi alla fine. Quindi oggi qua si vedevano i piloti, punto. I piloti si sono visti. Senti, com'è Zarco? Ragazzi, lo chiedo a tutti e due, com'è Zarco? Allora, è poco spendibile come personaggio, perché non è un personaggio. però è uno tosto che al risultato ci arriva, quindi per la squadra, per il team manager è un ottimo personaggio, ma non per i media, non per gli sponsor, non per tutto quel circo che c'è attorno. Se fossi un Carletto e dovessi gestire uno Zarco, sarebbe un'impresa. Vabbè che a Carletto riesce l'impossibile, quindi riuscirebbe a far fidanzare Zarco con un'altra Belè, questo è Carletto. Con la sorella, che ne sa. Ma guardate, Zarco, allora, questo era un pilota abbastanza sottovalutato, che ha vissuto con un manager, diciamo, di questo genere, che era più una setta, tra virgolette, credetemi, ed era una persona che non era comunicativo, non parlava con nessuno, era isolato, viveva in campagna con questa persona, non che fossero, cioè, diciamo che, esatto, erano due remiti. Poi è stato uno che è sempre stato, nonostante avesse vinto due mondiali, ricordatevi che nessuno lo voleva. Se vi ricordate, l'anno scorso l'aveva preso Davide Brivio, aveva il contratto con Zarco, e poi lo fece saltare per Rins, e rimase a piedi Hervé Poncherat, che è un francese, non l'ha mai voluto. Cioè, considerate un team francese che non vuole un francese, mi sembra una cosa abbastanza strana, no? Era l'unico, anomala, tra l'altro. Anomala. Beh, insomma, però ci sta facendo vedere delle belle cose, ci sta facendo divertire. Assolutamente, l'ha preso perché non aveva il secondo pilota, ha dimostrato di essere un pilota che tutti noi abbiamo sottovalutato e abbiamo sbagliato. È un pilota tosto, ha ragione Vale, che probabilmente, sai, a Sterivari la certezza arrivarci, anche se con una moto perfetta come la Yamaha dell'anno scorso, sai, poi essere nei primi, prendere le misure, gestire le gomme, gestire le posizioni, gestire la frenata, non è una cosa facile. Al decano puoi permettere di dire tutto. Vi devo salutare, grazie a Roberto Ungaro e Carlo Pernat. Ciao, a prestissimo. 800 24 00 24, ci chiedono fino a quando andate in onda quest'estate. Domenica prossima, poi riprenderemo il 20 agosto, perché questa è un'estate senza Europeo, Olimpiadi, e quindi la domenica perché ci prendiamo una sosta. Durante la settimana si resta in onda senza nessun cambio di programma. 800 24 00 24, torniamo, parliamo ancora dell'incredibile Gran Premio di Baku. Tutti convocati. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presento. Tutti convocati. Lewis ha frenato troppo? Ha fatto brake testing, come dite voi piloti, su Seb? No, Lewis ha ragione, perché lui è il primo e lui dice la velocità. Molto facile. Solo la cosa strana, quando Sebastian è toccato dietro di lui, dopo lui passato, è toccato un'altra volta. L'ho visto in televisione, è toccato due volte. E questo sicuro una decisione delle steward. Sono sotto investigazione entrambi, però. Sì, dopo vediamo la decisione. Il primo è il primo, il secondo è il secondo. Quando uno frena, l'altro può frenare. È sempre la colpa di dietro e non di colpa del davanti. Questo era Niki Lauda pochi minuti prima che gli steward, o meglio la direzione gara, prendesse la decisione di cui vi abbiamo parlato, lo stop and go 10 secondi che è costato la vittoria a Sebastian Vettel, che a quel punto pensava legittimamente di poter vincere. Vettel poi che è arrivato quarto, Hamilton quinto, perché ha avuto un problema al sedile in questa gara folle del Gran Premio di Azerbaijan a Baku. Saluto Umberto Zappellone, vice direttore della Gazzetta dello Sport. Ciao direttore. Ciao direttore. Ciao, buon pomeriggio qui, a tutti. Qui ci stiamo discutendo io e Giovanni Capuano, perché l'abbiamo fatto anche con Leo Turrini, cioè Giovanni sostienilo tu. Io sostengo che al di là tecnicamente di chi abbia avuto torto o ragione, quella di Vettel è stata una dimostrazione di debolezza. Se al primo vero contatto con Hamilton fai un fallo di reazione così, che ti può portare a qualunque tipo di penalizzazione dopo, puoi rischiare di buttare via una gara, eccetera, vuol dire che avevi qualcosa per i nervi, insomma. Io ho scritto nel mio commento veloce sul sito della Gazzetta che ha avuto una domenica alla Zidane, una reazione alla Zidane, sì. Perché è vero che Hamilton è andato anche al di là di quello che forse aveva detto Materazzi in quella finale, perché quella manovra non è stata una manovra troppo limpida e chiara, nonostante le parole di Niki Lauda, perché ha effettivamente frenato un po' troppo, lui non doveva dargli quella ruotata, insomma una ruotata a gioco fermo praticamente, è qualcosa qualcosa di inaccettabile. È un duello che è la prima volta che si trovano praticamente ruota a ruota ed è finito così, quindi chissà cosa succederà da qui alla fine del mondiale. Devo dire che poi alla fine ha risvegliato tutto il Gran Premio ed è stato alla fine un Gran Premio all'altezza di quello delle moto che ci aveva fatto godere qualche ora prima. Sì, è stato un gran casino, direttore, è stato un gran casino su una pista che sì, a me non piace più a correre per nulla. L'ho detto prima, se ci metti due giorni a tirare via i detriti vuol dire che non sei all'altezza di ospitare un Gran Premio di Formula 1. Non si può fare una quindicina di giri dietro safety car solo perché devi pulire la pista e poi stoppare la gara perché devi pulire la pista. Insomma, il circuito è sicuramente bocciato. Nonostante paradosso milioni... che l'anno scorso ho letto non c'era stata nemmeno una era safety car. Era filato tutto liscio. L'anno scorso era filato via tutto liscio. Non vuol dire nulla perché è una pista troppo strana, è una pista troppo improvvisata. Va bene i soldi, però non ha diritto, non ha diritto di... di essere. Quindi diciamo che nel primo duello di nervi ha vinto Hamilton su Vettel. Ha vinto Hamilton, anche se io devo dirti che dai commissari mi aspettavo una tirata d'orecchi anche per Hamilton, perché comunque la sua manovra dietro safety car non è stata una manovra limpida e corretta, quindi giusto punire Seb perché la reazione va punita, ma Hamilton non poteva passare inosservata il suo fallo, perché in pratica ha fatto un fallo che poi ha provocato la reazione. Sì. Quindi ancora una volta Hamilton è rimasto impunito, gli capita spesso, è capitato spesso. Anche Bottas dopo due curve, non è stato sfortunato. Sul podio dopo due curve aveva sicuramente stato lui ad andare contro Kimi e a mangiargli tutta la fiancata della Ferrari, perché lui ha toccato il cordolo, poi è schizzato dall'altra parte e con un Kimi in pista sarebbe stato senza una macchina così danneggiata sarebbe stato sicuramente un'opportunità per la seconda Ferrari, così come poi l'ha avuta Bottas di arrivare secondo a fine gara. Credo per Raikkonen un senza voto oggi, perché davvero è stata una gara impossibile. Rischiava di essere un voto alto, sì, perché lui si era infilato molto bene. Voto alto lo merita perché ci ha provato finché non gli hanno detto fermati, però diciamo complessivamente senza voto. La seconda curva si era infilato ed era praticamente davanti, quindi insomma tanto di cappello, era partito molto, molto bene. Diciamo che poi alla fine della fiera però Vettel torna a casa con due punti in più di Hamilton, che visto come erano andate le qualifiche, come stava andando la gara a un certo punto, è anche un risultato positivo. È il massimo che si poteva pensare. Sì, però la vera domanda è questa, cioè in quel poco che abbiamo visto di automobilismo, in mezzo a tutto quello che stiamo cercando di raccontare, se possiamo tornare da Baku con un po' più tranquilli, cioè con meno l'idea che ci sia stato il controsorpasso della Mercedes sulla Ferrari, cosa che ieri in realtà un pochino era emersa, no? Giudicabile da questo il Gran Premio da questo punto di vista, ma anche forse un po' anche le qualifiche, perché ieri non va dimenticato che Vettel ha dovuto sostituire il motore e quindi è partito con un motore vecchio che non aveva le modifiche che aveva invece sull'unità montata all'inizio, poi ha avuto quel contrattempo quando stava rientrando in pista ha dovuto ritornare indietro e dall'altra parte Hamilton ha fatto il giro della vita, come gli capita spesso, bisogna dirlo, in qualifica, un giro perfetto, tanto che ha dato quasi mezzo secondo al suo compagno di squadra, quindi c'era tanto di Hamilton e la Ferrari non era al massimo della forma in qualifica. Poi in gara sicuramente il ritmo era migliore, ma lo avevamo già visto venerdì, mi ero illuso della Ferrari potesse vincere questa gara perché aveva un ritmo gara straordinario rispetto alla Mercedes. Siamo ancora lì, bisogna essere perfetti per vincere i Gran Premi quest'anno, sia la Mercedes da una parte sia la Ferrari dall'altra, e qui non lo è stato nessuno dei due, tanto che alla fine ha goduto Ricciardo. Non credeva ai suoi occhi. Lasciaci una battuta su Vale invece. Beh, cosa dire, Vale, è sempre, ci sorprende ogni anno di più, è infinito. E oggi non è stata una gara facile, perché Petrucci ci ha messo tanto alla fine per cercare di stargli davanti. Lui è riuscito ad asciugare la pista col pensiero negli ultimi giri, e, così come ha raccontato, ed è riuscito ad avere un ritmo che nessuno, a parte Petrucci, dietro riusciva più a tenere. Speriamo che il nuovo telaio rappresenti la svolta, perché un Valentino così, con le difficoltà del suo compagno di squadra, insomma è un mondiale che nelle prime gare ha vinto 5 vincitori diversi, va tutto preso alla giornata, perché cambia da un circuito all'altro, da una domenica all'altra abbiamo visto una grande differenza tra una moto e l'altra, però tre domeniche di fila con Lino Rivaveri, credo che comunque non sia male. No, assolutamente. Mi prendo gli ultimi 30 secondi, ma 30 davvero, per girare tre domande rapidissime a Umberto Zappelloni. Sono arrivate via SMS 349-238-6666. La prima è questa: Stroll è arrivato terzo per sbaglio o è lo Schumacher in salsa moderna? No, aspettiamo, ha fatto due gran premi buoni dopo i primi sei gran premi disastrosi, poi si è cominciato a prendere le misure. Chi lo conosce bene, tipo Luca Baldisteri, che conosceva bene anche Schumacher, dice che è un ragazzo che ha delle qualità. Fino adesso non le aveva fatte vedere, dal Canada in poi forse si è sbloccato. Oggi ha fatto una gara fortunata perché è riuscito, però è rimasto lontano da tutti i guai e non era facile su quella pista. Seconda domanda è questa: Vettel è partito con il motore vecchio o nuovo? No, con un motore che non era nuovo, con un motore vecchio. E la terza e ultima è: lo screzio tra Vettel e Hamilton è paragonabile al calcetto tra Valentino Rossi e Marquez di due anni fa? Questa è quella che mi intriga di più di domanda. Beh, insomma, cioè, perché bisogna entrare nella testa di questa gente qua. Diciamo che ci può anche essere, però quello là era più antisportivo. Va detto che là quello di Marquez è stato un omicidio sportivo, Marquez, anche più decisivo, Marquez, se permetti. E poi lì si giocava il mondiale. Il mondiale è ancora tutto aperto, e Marquez là era stato molto bastardo. Però, sì. Io l'ho definito un omicidio sportivo quel giorno, nel senso che ha di fatto cancellato un mondiale. Secondo me, quell'anno lì non c'è un campione del mondo. Non lo meritava tutta la vita lui, lo meritava tutta la vita Valentino. Esattamente. Senza ombra di dubbio. Va bene, abbiamo il traffico. Io ringrazio Umberto Zappelloni. Alla prossima. Ciao, direttore. Non mi hai ancora dato notizie. Giovanni Capuano, non mi ha ancora dato notizie su Donnarumma. Adesso oggi, arrivano le notizie su Donnarumma. Il traffico, vi aspettiamo subito. Convocati. Faircam Distribution, la soluzione adatta per la spedizione dei vostri prodotti in Italia e in Europa. Faircam.com. Vi presento. Tutti convocati. Penso dentro di me che certamente sarei riuscito a trovare una soluzione per convincere Donnarumma a restare, però mettiamoci anche nei suoi panni: un ragazzo bravissimo di 18 anni che si trova di fronte a un'offerta sensazionale, 100 milioni, non è un problema facile da risolvere proprio per un ragazzo serio, capace, ma di quell'età. Questo Berlusconi un paio di sere fa, 800240024. Domenica scorsa eravamo qui ad aspettare le parole di Mino Raiola. Oggi sulla vicenda, dopo una settimana in cui in realtà se ne è parlato molto meno, perché le diplomazie hanno trattato in gran segreto e forse lo stanno facendo anche in queste ore, improvvisamente si è riacceso qualcosa. Io saluto intanto Giulio Mola, collega del giorno. Ciao Giulio. Ciao Giulio. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio. Allora, faccio la sintesi. Giulio Mola, che questa mattina sul giorno esce con un pezzo che dice: Donnarumma rinnoverà con il Milan, lo farà con o senza Iraiola. Avrà a fianco sé un nuovo tutor che sarà Cristian Abbiati, che è appena stato preso come team manager del Milan. Attenzione, perché in realtà la famiglia di Donnarumma è molto stizzita, per usare un eufemismo, con Mino Raiola, per come è stata gestita tutta la vicenda. Mino Raiola viene fatto fuori da questa trattativa. Enzo Raiola, che è salito ieri in Polonia, abbiamo visto le immagini, lo fa per capire se è salvabile qualcosa del rapporto tra i Donnarumma e i Raiola. E quindi è una storia che porterà forse a una clamorosa rottura, ma non tra il Milan e Donnarumma, ma tra Donnarumma, la sua famiglia e Iraiola. Poi si mettono di mezzo alle famiglie, 16.08 Gianluigi Donnarumma sul suo account Twitter twitta: Donnarumma, Raiola, ieri, oggi e domani. Che è evidentemente una smentita, ma intanto dobbiamo dire clamorosamente è la prima volta che Donnarumma parla di questa vicenda. Giulio? Beh, intanto abbiamo rotto il ghiaccio. Non era questa ovviamente la mia intenzione, è una battuta. Io credo che stia iniziando un regolamento di conti interno fra clan familiari che potrà riservarci delle sorprese. In questo momento sono usciti di scena un paio di personaggi da questa telenovela molto antipatica. Massimiliano Mirabelli, indicato da Mino Raiola come il principale colpevole della rottura, e lo stesso Mino Raiola, che l'abbiamo visto piuttosto defilato in una stanza della sua casa a Monte Carlo fare una conferenza stampa per pochi intimi. Non la definire neppure una conferenza stampa, perché quando tu non inviti tutti i giornalisti non è una conferenza stampa. Detto questo, da quel che mi risulta e che mercoledì si è sbloccato qualcosa con l'incontro a Castellammare di Stabia tra Vincenzo Montella e Alfonso Donnarumma, che è il papà del giocatore, che hanno preso decisamente in mano la situazione. Ovviamente incontro di cui la conoscenza è Milan, di cui la conoscenza fa il sole, sono emesse alcune cose. Montella ha voluto rassicurare Alfonso Donnarumma, il quale era comunque molto arrabbiato per come Raio l'aveva gestito la situazione, la rottura e il post rottura, e le modalità, i toni, le espressioni, quello che si era detto. E a quel punto il Milan, rassicurato da Montella, ha sospeso anche le ricerche del portiere. Quindi tutto questo andrebbe letto come un riavvicinamento tra il Milan e Donnarumma, anche se poi oggi molti tifosi del Milan, basta andare a vedere che cosa c'è scritto sotto il tweet di cui ho dato conto prima, hanno letto le parole di Donnarumma come l'ulteriore strappo, anche a livello emotivo, emozionale. Sì, io credo che, attenzione, i Raiola sono due persone, sono Vincenzo Raiola e cugino, io erroneamente stamattina ho scritto il fratello, confondendomi un attimo, anche perché pensavo ai fratelli di Donnarumma, e Mino. E Vincenzo è quello che ha scoperto Donnarumma, c'è anche un legame affettivo fra i due, non per questo, non per niente è stato quello che si è recato a Cracovia, in un momento così delicato, tra l'altro quello che poteva anche essere l'ultimo giorno, in teoria, di Gigi all'Europeo, poi non si è rivelato l'ultimo giorno. È ovvio che Donnarumma, per una serie di motivi anche di riconoscenza nei confronti di chi l'ha scoperto, vorrebbe mantenere saldo il legame, ma in questo momento la situazione la vuol gestire il papà Alfonso Donnarumma con l'assistenza eventualmente di Enzo Raiola, ma senza rifare gli errori delle ultime settimane. Uno su tutti: ad Alfonso Donnarumma nulla era stato detto riguardo il preaccordo con Real Madrid, perché a Raiola si richiedeva solo un aiuto per l'aspetto contrattuale e il rinnovo col Milan, che è stato sempre la priorità di Gigio. Gigio non di aprire un altro tavolo parallelo con qualcun altro, in questo caso. Io non so come la pensate voi, ma a me viene in mente qualche parallelismo nel caso Balotelli: quando si mettono di mezzo le famiglie è sempre un casino. Quindi io decidono, o si lascia fare al procuratore di cui ci si fida, oppure si fa in un altro modo. Esatto. Sì, però quello che ho scritto nel pezzo, Mino Raiola non ha fatto i conti con Donnarumma e con la sua famiglia, che non sono esattamente la famiglia né di Ibrahimovic né di Balotelli né pure di Pogba. C'è qualche altra cosa che va oltre l'aspetto economico. Raiola ha fatto il suo mestiere di procuratore, giusto o sbagliato che sia, con i modi che ben conosciamo, e quindi si è arrivato a questa rottura. Vi dirò di più: nell'incontro appunto di mercoledì con Montella si è esposto dicendo, rassicurando la famiglia, appena Gigi rientra, per farlo stare tranquillo, li affianchiamo Abbiati. E Abbiati in questi giorni si è sentito spesso telefonicamente, si era sentito anche prima di partire. Abbiati aveva detto a Donnarumma: non fare passi falsi, attento a quel che fai. Ora più che mai c'è un contatto fra i due. Questo tweet di Donnarumma mi stupisce moltissimo, anche perché se fosse c'era una cosa da non fare in questo momento era legare il suo nome a quello di Raiola. Evidentemente una prima risposta per cercare di accontentare tutti. La mia sensazione, ripeto, resto l'idea che lui rinnoverà le condizioni del Milan, ci sarà una clausola importante, Mino Raiola dovrebbe uscire di scena e Alfonso Donnarumma gestirà il tutto, probabilmente con Enzo Raiola, ma vi posso assicurare che il Milan sta pensando anche alle eventuali soluzioni con procuratori di spessore di fama internazionale, e anche molto meno complicato da un certo punto di vista che sarebbe davvero uno scenario clamoroso. Grazie Giulio. Ciao Giulio. Grazie a voi ragazzi, ciao. Buon pomeriggio a tutti. Ciao Giulio, grazie a Giulio Mola del Giorno. Insomma, c'è tanto tra le righe da leggere di questa vicenda, una settimana dopo le parole di Mino Raiola, che tutti attendavamo come di chiusura assoluta, e invece siamo ancora qui a parlarne. Gabriele da Milano, abbiamo un minuto. Gabriele, Io volevo farmi una domanda. Vai. Io non ho ancora capito il motivo per cui Donnarumma c'è stato lo scontro. Allora, Donnarumma non crede nel progetto del Milan per cui vuole una clausola, o Donnarumma, come ha detto Berlusconi, fra un anno rischia di portarsi a casa 50 milioni di buona uscita, perché anziché il Real Madrid, anziché pagarla al Milan, lo paga lui? Perché in questo caso qualcuno voglio dirmi chi è che rinuncia a 50 milioni. Io credo che a questa domanda non ci sia risposta. Poi non credo che Donnarumma rinunci a 50 milioni di buona uscita, perché non sono quelle le cifre. Al massimo possono esserlo per il suo procuratore, per tutto l'entourage. Insomma, le cose le abbiamo lette anche della trattativa, della vicenda di Pogba. Però qui siamo su piani diversi, e credo anche che da qui a una decina di giorni noi avremo tutte le risposte, perché pur senza ultimatum è evidente che il Milan non può andare tanto oltre per avere la certezza di cosa sarà il futuro di Donnarumma. Noi restiamo qui ancora fino alle 19, adesso c'è il GR 800 24 00 24. Quando torniamo parliamo della meravigliosa impresa dell'Under 21 di ieri sera. Le critiche ci stanno, fanno parte del nostro lavoro, bisogna capire dove abbiamo sbagliato e dove si può migliorare. Stasera abbiamo fatto una buonissima gara contro un avversario forte, l'obiettivo era vincerla 1-0 per poi vedere cosa poteva succedere, così è stato. Quindi complimenti a questi ragazzi. Oggi però, già da stasera, dobbiamo pensare che non abbiamo fatto niente, c'è da migliorare ed arrivare in fondo. Tutti convocati. Tutti convocati. Musei a cielo aperto, gioielli dell'arte e della natura da vivere, ma anche da preservare. Da Firenze a Venezia, da Roma alle Cinque Terre, ci si interroga. Come conciliare il turismo di massa con il decoro e la sicurezza del territorio e delle opere d'arte? Venezia pensa al numero chiuso, Firenze bagna le strade. E gli altri nel mondo, che fanno? Un viaggio tra arte, natura e rispetto, in onda dal 26 al 30 giugno nel GR delle 7. E un reportage dedicato sabato 1 luglio alle 7:15 su Radio 24 e su radio24.it. Tutti convocati. 0-0 comunque dopo mezz'ora. Pressing bellissimo di Pellegrini. Attenzione Bernardeschi. Bernardeschi! Secondi al termine, Di Biagio guarda, arriva il fischio, Chiesa tutti in campo ad abbracciarsi, Di Biagio viene travolto dall'affetto dei suoi, si parlava di miracolo, di impresa e l'impresa c'è stata. È tanta. Quando indosso questa maglia è un qualcosa di speciale e particolare, perciò fare un gol così importante è veramente bellissimo. Con il cuore si va avanti e non c'è niente da fare, non smentisce mai. Io ho detto una cosa al gruppo la sera stessa che abbiamo perso la Repubblica Ceca, che noi purtroppo anche 2 anni fa ci dobbiamo sbattere il naso nelle cose, però penso che quella sera ci sia servita tanto, soprattutto anche nel caso di oggi. Abbiamo capito quello che ci serve per essere un grande gruppo e per poter mettere in difficoltà chiunque. Penso che ogni tanto debba anche andare bene, insomma 2 anni fa ci aveva detto male e oggi invece andava tutto bene. It's time to get the chains out. Abbiamo tirato fuori tutto quello che avevamo dentro, perché sapevamo che era un dentro fuori, era un quarto di finale, e quindi siamo felici che sia andata bene. E poi grande l'Anna di Marca che ci ha fatto un favore, e quindi va bene così. Questo ieri sera l'impresa dell'Under 21, grande cuore, grande vittoria, 1-0 con la Germania, vale le semifinali, poi per beffa noi ci pigliamo, pur avendo vinto il girone, la Spagna, loro si pigliano gli inglesi, ammesso che sia un vantaggio aver preso gli inglesi. Carissimo Luigi Pardo, ciao. Come va? Ciao ragazzi. Come va? Tutta la pagina di motori, mi avete fatto grande compagnia, insomma, devo dire, Dai, non è andata male, questa due giorni. No, è andata, no, bene, è andata bene. Tutto sommato è andata bene. No, ma dicevo, come da facile pronostico, quando siamo praticamente fuori, quando tutti ci danno per spacciati, quando siamo sfavoriti, anche per le stelle, tac, piazziamo il colpo. Sì, anche se poi la storia del calcio italiano è piena anche di, invece di recriminazioni, di appunto la Danimarca ci fa pensare a quel famoso presunto biscotto portoghese. Stavolta hanno chiuso la fabbrica, hanno chiuso la cucina. Hanno chiuso la cucina. Quindi insomma dipende, oppure anche Italia-Germania poteva farci pensare al 96, all'Inghilterra, rigore sbagliato da Zola, quindi non è che si andrà sempre così. Qualcuno dice anche che la Germania in qualche modo può essere contenta di aver evitato la Spagna. Sì, io ma nell'ultimo quarto d'ora però, Piero. Ma no, oltretutto. Io dico anche un po' serenamente chi se ne frega, e credo che adesso quell'ingenuità, perché era stato sicuramente ingenuo e probabilmente anche con qualche errore da parte di Di Biagio, che l'aveva anche riconosciuto, l'approccio alla partita con la Repubblica Ceca, adesso si riparte 0-0, chiaramente l'avversario non è facile, però insomma è una grande partita da vincere questa tra Italia e Spagna, secondo me abbiamo le qualità per provarci. Ma sì, ma poi insomma chi sopravvive dopo non può temere nulla. Io però sono particolarmente contento, perché penso che nella seconda gara con la Repubblica Ceca Di Biagio abbia fatto certamente qualche errore, ma una cosa non ha sbagliato: a fare il turnover. Cioè, quando una nazionale, ed è il caso dell'Italia, dovesse arrivare in finale, fa 5 partite in 12 giorni, perché questo riserva il calendario all'Italia, 5 partite in 12 giorni, se tu non fai turnover vuol dire che non punti a vincere. Col senno di poi sì, però ecco, se ieri la Repubblica Ceca avesse fatto, tra virgolette, il suo dovere, noi eravamo a casa. Ho capito, Pier, ma questa formula qui non dava nemmeno con la vittoria con la Repubblica Ceca la certezza di essere qualificati. Cioè, ieri sera saresti dovuta giocare comunque fino alla morte con la Germania. Sono d'accordo. Magari potendo pareggiare, questo sì, però alla morte te la saresti dovuta giocare. Le variabili fisiche nelle competizioni brevi sono pesantissime. Io il ricordo più nitido che ho è quello di Kiev. Della finale dell'Europeo persa male contro la Spagna, probabilmente l'avremmo persa comunque, però noi giocammo giovedì sera la semifinale a Varsavia e la domenica la finale a Kiev, dopo essere tornati a Cracovia in ritiro, insomma sicuramente sono componenti che ci sono in un Europeo che è più lungo, l'Europeo diciamo maggiore che è più lungo, ci sono anche appunto queste famose 5 partite in 12 giorni che abbiamo davanti, per cui sì, è chiaro, aver fatto turnover quel giorno lì ci è sembrato un errore, adesso per come è andata potrebbe essere stato un vantaggio. Secondo me è stata la scelta di uno che pensa di poterlo vincere l'Europeo, perché se avesse pensato alla minutaglia, metteva i titolari, faceva 6 punti, poi magari metteva i titolari e cercava il pareggio con la Germania e poi si vedeva. Invece noi siamo andati lì per vincerlo, poi adesso vediamo, perché la Spagna è fortissima, ma io sono sicuro che se dovesse andare male martedì sera rismonteranno immediatamente dal carro tutti e ritorneranno le critiche, ragazzi sono viziati, questi sono sopravvalutati e posso dire una cosa, io tutte le volte che noi parliamo con gli allenatori del settore giovanile, un elemento che viene fuori è che per quanto a tutti noi piaccia vincere pure giocando a carte, però se c'è un tipo di mondo dello sport nel quale la vittoria è un pochino meno importante, perché la vera vittoria è costruire grandi giocatori, è proprio a questi livelli, per cui io ti dico che baratterei serenamente, ma te lo dico prima di cominciare, baratterei una severa sconfitta con la Spagna in questa semifinale per l'Under 21 in cambio di una generazione, in cambio del fatto che questa generazione, che sembra onestamente di altissimo livello, poi ci regali 5-6 anni magari fra qualche tempo di grande livello. Sai qual è il problema, Piero? I ragazzi non vanno sovraccaricati, vanno stimolati ovviamente, perché insomma si fa sul serio, però secondo me bisogna anche che abbiano un po' di leggerezza e un po' di serenità. Sai qual è il problema, Piero? Questa nazionale Under 21 va quasi tutta in nazionale, perché c'è qualità. Il problema è che manca la terra di mezzo. Io facevo oggi un conto, questa è una nazionale che ragiona sul 2022, su quel mondiale lì, perché non è pronta per il 2018, però nel 2022 ti servono quelli nati nel 90, nel 91, nel 92, nel 93, cioè i trentenni per fare la spina dorsale. E io non lo so se ce li abbiamo di alto, però, ragazzi, di altissimo livello. Insomma, dai, diversi di questi sono, insomma, li vedremo in Russia l'anno prossimo. Sì, però per fare una nazionale poi hai bisogno dei vecchi. E i vecchi non c'è dubbio. Però dico anche che, insomma, da come eravamo messi fino a qualche tempo fa, poi, insomma, noi siamo cintura nera di catastrofismo, no? Appena le cose vanno male siamo sempre molto molto pronti a sentirceli addosso, giustamente anche. Mi sembra che invece il calcio italiano, da questo punto di vista, rispetto a qualche anno fa, intraveda un orizzonte interessante. Poi hai ragione, sicuramente mancano quelli con 4-5 anni in più di questi. È saltata una generazione. Sì, però, insomma, dai, tanto godiamoci. No, ma noi godiamoci questo, godiamocelo. Certo. Allora, prima del traffico, facciamo Tano da Milano, 800-24-0024, poi andremo avanti ancora a parlare dell'Under 21, vi racconterò anche un'altra vicenda di Donnarumma, è emersa proprio in queste ultime ore. Tano, prego. Eccomi. Vai. Buongiorno a tutti. No, un po' di considerazioni. Allora, la prima è che... Gigio, chiamiamolo così, visto e considerato che è un ragazzo, deve poter avere la possibilità di pensare un attimino con la sua testa e non avere 2000 persone intorno. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è che Raiola ha un metodo di lavoro che lo vediamo con tutti i calciatori con cui lui lavora. Un calciatore deve restare 2, massimo 3 anni in una squadra perché lui ci deve guadagnare, e secondo me lo mette già nei contratti di stipula quando questo giocatore va in una società. Mi spiego meglio: se tu giocatore Camillo, diamo un nome qualsiasi, vai a giocare per il Chelsea anziché Manchester, anziché Real Madrid, io per 3 anni ti dico già che lui ti deve spostare. Poi, se lo vuoi tenere, tu mi devi dare dei soldi perché tu l'hai tenuto. Sì, ma può essere, ne abbiamo lette di tutti i colori. È una delle cose che non mi tornano, perché per l'appunto, proprio per questa ragione, mi sarei aspettato una firma con il Milan e poi tra 2-3 anni lo sposti eventualmente con un valore e cominci dai lì il tuo giro. Chi lo sa, Pier, prima abbiamo raccontato un paio di retroscena, c'è questo tweet di Donnarumma. Ho risposta al tweet. Allora, innanzitutto io ti dico che questa è una storia, secondo me, interessante e per certi versi senza precedenti, perché che io mi ricordi non c'era mai stato il caso di un giocatore così forte, così giovane, nell'epoca dei social network, che non è un dettaglio. Oggi Donnarumma ha fatto 2 tweet. Il secondo è quello che hai raccontato, che è il più interessante, diciamo, dal punto di vista del futuro, dedicato a Raio. Un altro è una risposta a qualcuno che gli diceva che non aveva firmato un autografo, non aveva fatto una foto ieri con un bambino. E lui dice: guarda che l'ho invitato poi nello spogliatoio, abbiamo fatto la foto e piantatela di rompere il campo. Basta infangare le persone gratuitamente. Quindi quello che adesso faccio fatta calcio. Immagino che oggi, in una giornata comprensibilmente di scarico, dopo la bella serata di ieri, Donnarumma si sia per un attimo concentrato sulle sue cose e, insomma, evidentemente avrà letto un po' di cose, le avrà lette anche dei giorni scorsi, se è andato a guardare, non per fare il guaierismo, ma le risposte che arrivano al suo tweet, quello su Raiola, è della roba veramente molto molto pesante, giusto o sbagliata che sia. Però voglio dire, un ragazzo di 18 anni sarà pure un miliardario potenziale, sarà pure un campione, glielo auguriamo di tutto cuore. Però, insomma, è un ragazzo di 18 anni che da circa 15 giorni, se apre la sua pagina Twitter... Ma non è facile vivere con quella roba lì nel telefonino. Appunto, non è facile. Lo sanno tutti quelli che hanno una funzione pubblica, ma anche molto minore rispetto a Donnarumma. Voglio dire, quando c'è qualcuno che ti fa una cosa che non ti piace, o c'è un vento di persona, una tendenza di persone... Non è facile. Figuriamoci per Donnarumma. Donnarumma sta fronteggiando una crisi di popolarità enorme, non soltanto da parte dei tifosi del Milan, principalmente da parte dei tifosi del Milan, ma anche da parte di molte altre persone. Io ho sentito tutta la ricostruzione di Mola e mi sembra tutto molto interessante. Mi sembra che ci sia chiaramente il punto di partenza che dicevo qualche giorno fa, che non torna. Cioè, Raiola può essere il miglior procuratore del mondo, a patto però che il giocatore, e in questo caso mi pare di aver capito anche la famiglia del giocatore, esposi la linea. Allora, se tu hai bisogno di andare a fare più soldi possibile. Se hai bisogno di cambiare aria e sei disposto anche ad accettare dei metodi piuttosto aggressivi sul piano negoziale, il tuo procuratore altrimenti può venire fuori qualche crepa. Se invece ti vuoi vivere una vita un po' diversa, un po' più tra virgolette tranquilla, allora forse Raiola non è l'ideale. Io capisco che Donnarumma a 18 anni si fili di Raiola, e io penso che il tweet di oggi è un tweet perché lui ha paura, o probabilmente, non voglio dire se sarà Raiola a chiederglielo, però insomma vuole dire al suo procuratore: io vado avanti con te. Cioè, è un tweet tutto sommato da bella persona, secondo sì, me. Però se tu stai zitto da settimane su questa cosa, io credo che... Non lo so, non lo so. Credo piuttosto ci metti la faccia e dici: abbiamo il traffico, siamo in maxi ritardo. Poi parliamo ancora dell'under 21 con un ospite. E poi vi leggo anche qualche messaggio che sta arrivando. 800 24 00 24, traffico. Siete tutti convocati. Arrivo, un attimo. Tutti convocati. Si parlerà di miracolo questa sera, adesso ne occorre un altro contro la Spagna. Lo faremo, cercheremo di farlo. Adesso insomma godiamoci questa serata e dobbiamo recuperare. Poi fra un quarto d'ora penseremo alla Spagna. Questo Di Biagio ieri, subito dopo la fine della partita. Saluto Roberto Rambaudi. Ciao Roberto, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao Rambo. C'è Pierluigi Pardo, c'è Carlo Genta. Vi leggo qualche messaggio, 349-238-6666. C'è chi ha scritto: a me sembra che questa Under 21 sia più fortunata che brava, tanto cuore ma il gol arriva sempre per un rimpallo. E poi un altro che scrive: Max da Novara, non capisco perché scomodare le imprese quando la Germania da noi sportivamente ha preso sempre schiaffi. Quindi insomma non sarebbe un'impresa battere 1-0 la Germania, non lo so. Roberto? Mi sembra l'anno scorso no. Non è che è un'impresa clamorosa, però sicuramente per come è iniziata l'Europeo ha fatto una prestazione ottima sotto tutti i punti di vista, quello che non aveva fatto le prime due partite. Ha giocato una partita perfetta contro una grande squadra che non aveva mai perso, 12 partite consecutive vinte, 40 gol fatti, 8 subiti, 9 con quello di ieri. Quindi è la prima partita che perde in 12 partite ufficiali nelle qualificazioni e finali. Ieri è stata giocata molto bene sotto l'aspetto dell'atteggiamento, sotto l'aspetto di non far giocare la Germania e sfruttando al meglio le proprie qualità. Quindi quando c'è da criticare si deve criticare. Ieri invece ha fatto, secondo me, è un'ottima prestazione. Ma valiamo la Spagna o no? Dai, chi è che si sbilancia? No. La Spagna è più forte, è ha più qualità, secondo me, individuali dentro che si mettono a disposizione nel collettivo. Un gioco già sicuro, predestinato, prestabilito su quello che deve fare. Però il calcio mai dire mai, l'Italia gioca bene in fase difensiva e riesce a ripartire con i giocatori che ha di qualità, che abbinano la qualità individuale nella velocità, può mettere in difficoltà, però la Spagna è più forte. Perfetto, solita solfa, insomma, battiamo la Germania e cadiamo nella Spagna. Perché l'anno scorso la Spagna è l'Europeo dei grandi. L'anno scorso è successo il contrario e in qualche modo qualche analogia la vedo, anche se certamente la Spagna si dimostrò stanca in quella circostanza, però le analogie le vedo dal punto di vista dell'atteggiamento. Cioè, se noi giochiamo la partita con l'intensità che aveva avuto in quella circostanza l'Italia di Conte, proprio perché condivido l'analisi di Rambo, cioè penso che la Spagna abbia qualcosa in più dal punto di vista delle qualità dei singoli e probabilmente anche dal punto di vista dell'affiatamento. La Spagna ha un livello di gioco più alto del nostro. Noi siamo però una squadra che può farti giocare male. E quindi secondo me è quella stessa chiave lì. Poi ovviamente la Spagna dell'anno scorso, nazionale A, era una squadra stanca e forse un po' avanti con l'età in alcuni giocatori chiave. Queste sono squadre ovviamente giovani per definizione e quindi è un'altra storia. Però secondo me è un po' la stessa storia, speriamo finisca nello stesso modo. Intanto sulla provocazione che abbiamo lanciato prima sulla generazione persa, quella che nel 2022 in un mondiale dovrebbe accompagnare questa nazionale Under 21 e creare un'ossatura forte. Sentite cosa mi ha risposto un amico via WhatsApp: Insigne 1991, Immobile 90, Verratti 92, Florenzi 91, De Sciglio 92 e Belotti 93. Qualcosa c'è. Questo gruppo, secondo te, Roberto, va tutto in nazionale grande? È qualcosa su cui dobbiamo puntare davvero, non ovviamente per Russia 2018, ma magari del 2022? Ma io il gruppo, io il giocatore, io non guardo la carta d'identità. Sono giocatori bravi, giocano, sia che siano giovani o no. Purtroppo in Italia si pensa che i giocatori di 23 anni siano giovani ancora. Infatti. E mi sembra una cosa assurda. 23 anni, il giocatore che già fatto, già 3-4 anni, 3-4 anni nelle gambe. Io credo che l'Italia ultimamente anche si sopravvaluta. Cioè, un giocatore fa come si sottovaluta, si sopravvaluta, fa il giocatore, fa 4 partite ed è un fenomeno, ne fa una male ed è un pippone. Ci vuole più equilibrio. Io credo che l'Italia abbia dei giocatori che hanno qualità importanti, che bisogna costruirle, bisogna allenarle. Queste sì, queste qualità. No, ma, e poi perché poi scusa Roberto, mi sfugge una cosa che chiedo a Giovanni, ma perché questa nazionale non dall'anno prossimo? Ha ragione Roberto, 22-23 anni, un giocatore non è mica giovane. Insomma, beh, però credo che le scelte per l'anno prossimo, ammesso che l'Italia, ma ce lo auguriamo tutti, riesca ad andare al mondiale, siano fatte. Dietro ci sia il blocco della Juventus, ad esempio, a metà campo ci sia De Rossi, degli equilibri che sono stati trovati. Ci sono già diversi di questi giocatori che sono lì a lavorare con la nazionale maggiore. Ma secondo me, ragazzi, la cosa più plausibile è che 4-5 di questi ragazzi dell'Under 21 verranno convocati per il mondiale, ma probabilmente titolari magari ne vedo pochi. Ci va? Dai, Donnarumma, Bernardeschi, poi... No, però c'è un discorso, ci sono reparti. Io credo che invece nel reparto difensivo Ventura prenderà molto da questi giocatori. Perché? Perché Barzagli, Chiellini, l'età passano, il recupero mettono più lungo a farlo. E quindi Caldara e Rugani stanno crescendo molto bene. Dovendo prenderne uno, chi vi portate? Rugani o Caldara? Perché a me ieri sera il dubbio è venuto, devo dirvi la verità. Roberto? Lo so, ieri Caldara ha fatto una grandissima partita. Mi sembrava Cannavaro. Insieme a Rugani. Io dico che Rugani è un giocatore talmente intelligente che di un'eleganza paurosa, che insieme a Caldara interagiscono molto bene. Non dimentichiamo Romagnoli. Certo. Che è un altro già nel giro anche della nazionale grande. Appunto. E Gagliardini. Ma secondo me invece davanti, ecco, per esempio Bernardeschi è uno di quelli che sì, come talento dà la sensazione di poter essere abbagliante, però secondo me lì davanti abbiamo forse più alternative per quanto riguarda la nazionale l'anno prossimo. È un discorso un po' da fantacalcio, a parte, non vorrei essere spoetizzante e antipatico, dobbiamo prima andarci al mondiale anche. No, ve lo ricordo, scusate. No, noi l'abbiamo detto, tutti ci auguriamo che si vada. Siamo ottimisti. Vabbè, insomma, tu ci hai spoetizzato, Pier. Io sono ottimista, io penso che veramente, a parte io penso che sia una sordità. Ragazzi, non possiamo pensare di non andarci. Che Spagna e Italia siano dello stesso girone, ho detto mille volte, perché dovrebbe esistere anche, secondo me, al di là dei ranking che guardano le amichevoli o che guardano la partita con Liechtenstein, quanto hai vinto dall'ultimo, dovrebbe esistere anche una storia a livello di grandi competizioni dovrebbe contare, quindi che Spagna e Italia siano nello stesso girone mi sembra veramente un'assurdità. Detto questo, sono ottimista e soprattutto credo che un po' grazie a Ventura, un po' grazie al lavoro innestato già qualche tempo fa da Conte, grazie al lavoro di una serie di allenatori, penso a Di Francesco, a Gasperini, ci sono delle società in questi anni che anche lo stesso Torino che hanno fatto tanto, che hanno creduto nei giovani italiani, quindi mi sembra un periodo molto incoraggiante. Mm-hmm. Mi sembra che il periodo buio sia alle spalle. Poi è ovvio che abbiamo il paradosso che in un momento di ripresa del calcio italiano abbiamo beccato un girone complicatissimo e una competizione più complicata di altre volte. Che rischia, che rischia di allungare le nostre sofferenze. Ma vedrete che poi alla fine andrà tutto bene. Ringrazio Roberto Rombaudi, grazie Roberto. Grazie Nambo. Grazie ciao, a voi, ciao. Buona serata. Ci sentiremo martedì sera ore 21 sulla Rai per la semifinale Italia-Spagna, Rai 1, perché l'Under 21 sta anche davvero ieri, piacendo a tantissimi. Fammi dire una cosa, anche se non lavoro per la Rai, ma ovviamente sai che la community, come dicono quelli bravi, si chiama questo gioco e chiama lo sport, è trasversale. Complimenti, perché insomma... complimenti non soltanto alla Rai, ma anche alla passione degli italiani, perché 32% di ascolto con più di 5 milioni per la nazionale Under 21, non so se è il record, ma insomma è un risultato bellissimo, no? Che ti dà l'idea che la passione per questo gioco è viva e lotta insieme a noi. Fai bene a sottolinearlo, assolutamente. Allora, abbiamo la pubblicità, ci fermiamo un minuto, 800 24 00 24, poi parliamo di Ibrahimovic, di questa suggestione che gira per l'Europa e anche in Italia. Voglio sapere da voi a chi potrebbe davvero servire Ibrahimovic tra Inter, Juventus, Roma, Napoli, Lazio e Milan. Me ne dovete dire solo una, torniamo fra un minuto. Siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Tutti convocati. Ma Zlatan sta bene, sta procedendo molto bene, noi abbiamo dato tempi di recupero perché per Iella più che altro, e abbiamo delle squadre che sono interessate in lui e là non sappiamo ancora quello che noi vogliamo fare. Ci sono delle squadre all'estero, ci sono delle squadre all'MLS. In Italia? C'è sempre la... No, neanche anche in Italia sarebbe possibile, però... In Napoli? In Napoli? Hai detto in Napoli? Ah no, guarda, possibile è tutto, io non credo che noi andremo a Napoli. È un vecchietto, non come me, ma per il calcio è un vecchietto. Però Ibra, dovunque è andato, ha fatto vincere le squadre che lo schieravano, quindi perché no? Ibra, mi piacerebbe ancora vederlo con la maglia numero 9 del Milan. Che di Ibra si è tornato a parlare nell'ultima settimana, avete sentito Mino Raiola domenica scorsa, poi avete sentito Silvio Berlusconi, poi c'è stata la prima pagina del Corriere dello Sport, poi c'è questa domanda che aleggia: quando torna, in che condizioni torna, ha voglia di tornare in Europa oppure di andare direttamente a chiudere la carriera in Nord America, negli Emirati, insomma dove lo coprirebbero d'oro. E poi a chi serve davvero? C'è Pierluigi Pardo, c'è Jennifer Wegerup e nessuna meglio di lei conosce Zlatan Ibrahimovic. Dove allora, vogliamo arrivare? Fatemelo sapere subito. Direttamente dove va, perché lei lo sa. Se anche non lo sa Zlatan, la Wegerup già lo sa. Jennifer, ciao buon pomeriggio. Jennifer. Ciao, buonasera, buon pomeriggio. Allora, che voglia Ibrahimovic? Di cui le ultime tracce che abbiamo sono quei due piedi che sbattono a letto con su le scarpe da calcio, del video di cui abbiamo preso la musica. Jenny? No, è furbo Zlatan, è anche bravo a fare pubblicità per se stesso, per le sue cose, per i suoi vestiti, insomma, intelligente. Poi Zlatan ha ancora voglia di giocare ad altissimo livello, quindi per come l'ho capito io, se va negli Stati Uniti alla fine sarà solo perché non c'era un'opzione più buona, non è la sua prima scelta, diciamo, ma vuole rimanere ancora in Europa ad alto livello. Quindi lui oggi pensa ancora all'Europa, pensa a un grande calcio, ma tu hai un'idea, esiste un orizzonte temporale per il rientro? No, non saprei dire, perché gli infortuni sono sempre difficili, ma comunque già qualche mese fa ho sentito che insomma le cose andavano meglio di quanto aspettato e infatti poi è stato confermato. Come sappiamo Zlatan è un mostro sia fisicamente ma anche di testa, lui vuole tornare il più presto possibile, quindi secondo me già quest'autunno, poi non so quando, ma non credo che bisogna aspettare fino a tipo gennaio. Ah, quindi addirittura dentro il 2017 potrebbe tornare, il che sarebbe una notizia, credo, per tutti quelli che, sì, che vogliono allungare un occhio su Ibrahimovic. Sì, ma lo dico cioè, così, poi bisogna chiedere a Ibra, sì, il suo dottore. Certo, quindi, per carità. Sì, certo, Pier. Vabbè. Sì, diciamo che lui si può riposare nei primi mesi della stagione, arriva ancora più caldo da gennaio e poi. No, Ibra secondo me serve sempre. Non serve secondo me alla Juve. Ecco, se parliamo d'Italia, nel senso che Ibra, al di là del fatto che è chiaro che di fronte a un infortunio così pesante, un punto interrogativo su come tornerà, bisogna farlo, anche se è bionico di testa e di fisico, però insomma è chiaro che bisognerà capire, perché un po' l'età che va avanza e un po' questo infortunio così pesante, il punto interrogativo c'è. Detto questo, Ibra nella sua carriera è sempre stato un grande accentratore e un uomo perfetto per accorciare le distanze, quindi secondo me non serve alla Juve, perché la Juve ha già un'impalcatura molto chiara e molto precisa. Sono d'accordo con Berlusconi, servirebbe al Milan secondo me servirebbe tantissimo. Al Milan è una squadra giovane che quella personalità lì potrebbe veramente, a cui quella personalità potrebbe dare una grande mano. E con tutto il rispetto ad Andrea Silva, però insomma io credo che Ibra, a parte che sarebbe anche un'altra coppia così visti dall'esterno. Napoli è sempre una bellissima suggestione, secondo me Napoli qualche anno fa si poteva fare, credo che Jennifer lo potrà confermare, cioè, dal famoso viaggio in Vespa con Cannavaro, a lui Napoli piaceva. E sai, insomma, Napoli si sta preparando adesso la cittadinanza onoraria per Maradona. Insomma, Ibra, se un po' lo conosco, in una città come Napoli impazzirebbe in positivo. Però credo che quella fase lì sia, quel treno sia aperto. Si è superata. Che ne dici? Io sì. So che a lui dispiace un po' non aver mai giocato in Sud Italia. È contento della sua carriera, ecco, però effettivamente giocare in una città, una squadra come Napoli, per lui sarebbe stato comunque una cosa fantastica, come dicevi giustamente, sì, sarebbe impazzito lui, la città sarebbe impazzita. Quindi vediamo, tra lui e tutta l'Italia c'è sempre un legame, è molto particolare, insomma un amore proprio per tutto il paese, non solo Milano. Sì, ma una cosa, Isabella, tu che lo conosci meglio di tutti gli altri, dopo questo infortunio tornerà a giocare, però lui è sempre stato ad essere abituato ad essere il grande protagonista, il grande accentratore. È chiaro che non accetterebbe un ruolo diverso da questo, da comprimario, no? No, infatti non lo farebbe mai. Infatti io sempre ho detto, per esempio quando adesso deve giocare insieme a Cristiano Ronaldo, io sempre ho detto non credo, perché non funzionerebbe mai, perché né lui né Cristiano, adesso parliamo del passato, avrebbe fatto il numero 2. La stessa cosa vale adesso, ma io credo comunque se Nathan torna solo se si sente proprio al massimo livello. Lui non giocherà mai a un livello più basso. Caso preferisce per esempio andare negli Stati Uniti, in un altro posto, non torna in Europa se non torna alla grande, cioè torna per andare avanti a vincere, sono d'accordo. È una conferma di quello che diceva Jennifer, è ovviamente Barcellona, che è stato diciamo forse il fallimento della sua carriera, anche se poi non aveva fatto male, se guardiamo i numeri di quella stagione non erano stati numeri negativi, però è proprio il feeling che non è sbozzato, come ha raccontato anche nell'autobiografia con Guardiola, la presenza di Messi comunque evidentemente era incomparabile, ma Ibra in questo è veramente un giocatore con delle caratteristiche alla Maradona. Parlo dell'aspetto proprio mentale, della forza psicologica, del fatto che diventa immediatamente un'icona, un simbolo della squadra che rappresenta. Quindi da questo punto di vista è uno perfetto per prendere una squadra che deve fare un salto, secondo me, più che per andare a giocare in una squadra dai, come sarebbe perfetto per il Milan, dai, sarebbe perfetto per il Milan, sarebbe perfetto per questo Milan, sarebbe perfetto a Napoli, sarebbe perfetto a Roma, cioè in città che gli danno una capacità di essere non soltanto un giocatore ma un'icona. Cioè Ibrahimovic se va a giocare a Napoli, fra 10 anni c'è la cittadinanza onoraria di Napoli come quella che danno a Maradona, perché la città impazzisce per lui e lui impazzisce per la città. Con la Roma secondo me è un discorso simile, col Milan c'è un feeling particolare. Alla Juve proprio faccio fatica a vederlo, perché la Juve è talmente organizzata che rischia di diventare quasi un problema, no? Nel senso che è talmente ingombrante. Ma ti sorprenderebbe rivederlo in Italia, Jennifer? Poi ti salutiamo. No, a questo punto della carriera assolutamente no. Un anno fa era molto improbabile, era già tutto concordato con il Manchester, non aveva mai giocato nella Premier League. Adesso invece sarebbe un passo più logico a questo punto, dopo l'infortunio, visto l'età, visto l'amore che c'è per l'Italia. Poi il Milan c'è nel suo cuore, tutti che abbiamo vissuto quel periodo è stato così bello, però è anche vero che Zlatan ha detto non voglio tornare dove non sarà come prima, perché quello era un grande Milan, quindi bisogna vedere un po'. Poi a Zlatan piace arrivare ai nuovi posti e essere un po' il nuovo re, è vero che sarebbe anche il re che torna, però anche questo, c'è anche questo aspetto da considerare. Grazie Jennifer. Grazie, grazie. Grazie a Jennifer Wegerup. Ibra Mertens Cagliacona. Ma no, è perfetto per il Milan. È perfetto per il Milan, che si fa la squadra e poi spende un gettone. Tu mi hai chiesto tecnicamente, io ti ho detto che quella a cui serve di più è il Milan. Non c'è proprio, non c'è un dubbio. Però alla luce del discorso di Jennifer, ci ha detto delle cose interessanti. Anche la conferma sul fatto della sua passione per il sud, per il centro-sud, ma insomma Ibra un po' lo conosciamo. Ibra è proprio la famosa frase è quella: tu puoi togliere il ragazzo dal ghetto ma non puoi togliere il ghetto dal ragazzo, no? Cioè Ibra è quella cosa lì, è una personalità forte che viaggia spesso in direzione contraria rispetto ai poteri forti, tra virgolette, rispetto alle grandi squadre. È l'opposizione, non è il governo Ibrahimovic. Ma quindi potrebbe anche aver voglia di fare, ragazzi, questa cosa qui. Stiamo parlando sul finale di carriera di un giocatore che ha anni quanti? 35. È infortunato, reduce un infortunio. Guarda, io credo che questo sia la cosa. Se lui rientra con la testa sua e anche con i suoi standard. Ci fermiamo perché c'è il traffico. Pier, ti saluto perché poi parliamo di basket femminile. Quindi vabbè, io vi ascolto. Ci ascolti, ma io continuo a ascoltarvi anche perché ti posso dire. Sì. L'altro giorno eravamo in diretta, no, durante Italia Belgio, le ragazze mi hanno emozionato e quindi ne parlavo anche l'altra sera con... ladrata, ne parliamo con Giorgia Sottana, autrice di una meravigliosa lettera all'arbitro che ha rubato all'Italia il sogno del mondiale. Capelli corti straordinaria, una bellissima donna, grande giocatore. È sparito Pier, sì. Vabbè, è caduto proprio sull'ultimo. Grazie Pier, a domani traffico. Quando rientriamo, prima del basket, vi facciamo sentire un documento straordinario. Abbiamo la telefonata di Berlusconi che ha contattato Ibrahimovic per tornare al Milan. Ma va. Tutti convocati. Faircam Distribution. Spedizioni in Italia ed Europa su misura. Faircam.com. Vi presenta... convocati. Allora, che vediamo se Ibra risponde. Allora, questo suo numero, vediamo un po', e vuoi che non mi risponda, ma figuriamoci. Hi, I am Zlatan. Who the heck are you? Cazzo sei? Cazzo vuoi? Sempre spiritoso, sempre simpatico. Carissimo Zlatan, sono il tuo ex presidente, sempre coeso e molto positivo. Ah, presidente, scusami. Sì. Non ti avevo riconosciuto, ok? Sì, nessun problema, Zlatan. Senti, ti ringrazio per i regalini che hai mandato al nostro Dudu. È un dovere, soprattutto per me. Un piacere. Adoro cani, ok? Senti, Zlatan, mi interessa però sapere innanzitutto come sta il tuo ginocchio. Oggi ho fatto qualche salto mortale all'indietro con triplo avvitamento per riscaldamento. Tutto ok, tutto bene. Oh, piacere. Senti, io vorrei che tu tornassi a Milanello. Ma tu per ritornare cosa vorresti? Va bene. Per me va bene tutto. Quando firmiamo? Ma aspetta, dovremmo prima parlare, incontrarci, accordarci sull'ingaggio. Ma no, non è problema. Io firmo in bianco, no problem, ok? Beh, fantastico, allora siamo d'accordo. Poi Montella ha già chiaro in mente il tuo nuovissimo ruolo? Lui già pensare al mio ruolo. Cosa vuol fare a me? Rifinitore? Ma no, magazziniere! Ma si possono fare trattative così al telefono? A parte che Berlusconi non è più il proprietario del Milan. Questo era il nostro Andro Mercù, che continua a interpretare Ibrahimovic come uno che cerca in tutti i modi di andare da qualsiasi parte pur di rientrare. E vabbè, allora parliamo di basket femminile. Saluto Giorgia Sottana. Giorgia, ciao, buonasera. Ciao. Salve a tutti. Allora, azzurra della nostra nazionale, che ieri è stata battuta 68-67 dalla Lettonia, ha perso la chance di andare al mondiale che si terrà l'anno prossimo in Spagna. L'hanno rubata. Insomma, comunque con questo fallo antisportivo a 8 secondi dalla fine a Cecilia Zandalasini, perdonatemi, che di fatto ha deciso la partita. Giorgia Sottana, che ha scritto una bellissima lettera su Facebook all'arbitro, chiedendoci perché ha deciso di decidere lui la partita, che magari l'Italia avrebbe perso lo stesso, no Giorgia? Ma sai, sono quelle cose che purtroppo, dopo che lavori per un mese e mezzo ogni giorno per guadagnarti un qualcosa e ti viene tolto per un fischio arbitrale che non era giusto, non l'abbiamo rivisto e non era assolutamente un fischio da fare. Sai, ti rimane sicuramente una gran rabbia perché, ripeto, magari avremmo perso lo stesso. Sicuramente c'è chi dice avremmo potuto fare le cose meglio ed è vero. Magari avremmo potuto fare qualcosa di meglio, però purtroppo stiamo giocando un europeo, non siamo al torneo della parrocchia, della birra, si gioca tutti i giorni. Quindi ci sta anche che le partite vengono decise agli ultimi secondi e un episodio così, cioè, poi purtroppo fa magari fa avremmo male. Perso lo stesso, intanto eravamo sopra, tanto per intanto cominciare eravamo sopra e dovevamo è un errore brava è un errore tecnico, perché fischiare un antisportivo in quella situazione è chiaramente un errore tecnico. Io non saprei cos'altro aggiungere, cioè di basket, il mio sport di cuore ne ho visto tanto, ma un fischio come quello, insomma, non ne ho visti tantissimi. Ma a me piace capire da dove si riparte dopo una serata così. Oggi avete vinto la finalina per il 7º-8º posto, che non conta nulla, nel senso che fino al 6° si andava ai mondiali, dal 7° in poi era pura consolazione. Ma da dove si riparte? Ma si riparte sicuramente dalla consapevolezza che abbiamo lavorato bene tanto e si è visto, perché abbiamo avuto un riscontro dall'Italia veramente notevole. Infatti ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito. Questo ovviamente fa forza e fa capire che il lavoro non è stato vano e che abbiamo veramente un futuro importante davanti. Dobbiamo continuare così. Speriamo di avere risvegliato un pochino il movimento e di aver fatto sentire che insomma ci siamo vivi e possiamo fare veramente bene. Ma cosa passa per la testa in quegli istanti lì? Perché poi noi dalla televisione vediamo le mani nei capelli, le lacrime, la rabbia, ma cosa dentro, che cosa c'è? Ma dentro c'è, io parlo per me, c'è il vuoto più cosmico in assoluto, cioè non capisci dove sei, cosa fai, perché stai lì, a tratti quasi non senti le emozioni, perché ti vedi comunque tutto il lavoro buttato via in un secondo. Poi ti sale la rabbia, impotenza, sì, di fronte, esatto, a situazioni di questo tipo. Quello. Esatto. Poi ti sale la rabbia e vorresti prendere a pugni tutto quello che ti capita addosso, però poi uno deve anche stare un attimo composto e pensare che purtroppo è andata così, bisogna prendere il positivo di quello che abbiamo fatto, sì, questo è poco poi, ma sicuro. Poi con calma, si torna tranquilli, poi con calma. Con moltissima calma. Ma voi vi siete date una spiegazione di quel fischio? Non penso una spiegazione tecnica. C'è chi dice contiamo poco, c'è chi, sai, ma poi dopo ci sono sempre i retropensieri. Sai, io non voglio fare polemica, però non è stato il primo fischio dubbio durante questo europeo. Noi abbiamo perso una partita con il Belgio di 13 punti, le altre due che abbiamo perso le abbiamo perse di un punto e fatalità, in entrambe ci sono stati dei fischi molto dubbi verso la fine della partita, vedi Turchia, vedi l'altro giorno contro la Lettonia. Ovviamente ti viene da pensare che qualcosa c'è che puzza, però poi la mia parte di buona fede spera che non sia così, però viene veramente difficile da credere che si possa fare un fischio del genere a 8 secondi alla fine, quando ti stai giocando una cosa importante come un mondiale. Certo, come l'accesso a un mondiale. Ti giro, un messaggio che è arrivato: resti a Schio? No, non resto a Schio, io ho firmato per Montpellier, una squadra francese che fa l'Eurolega, e quindi il prossimo anno sarò in Francia. Perché poi, insomma, è anche giusto che si vada a cercare altrove la propria strada, dove magari il movimento è anche più formato, no? Zanda Lasini, che è delle mie parti, di Broni, di cui conosco bene papà, sono stato avversario sul campo, e anche lei è grande prospetto, vediamo dove va. Ma sai, Ceci ha fatto un salto di qualità quest'anno che è veramente notevole, e va sicuramente lodata, e sono veramente fiera e orgogliosa del lavoro che ha fatto, perché l'ho vista un pochino crescere a Schio, ed è una persona alla quale tengo particolarmente, quindi penso che gli vada fatto un grandissimo applauso per tutto quello che ha smosso nel movimento, e spero che anche lei abbia la fortuna di andare fuori non perché in Italia non si sta bene, ma perché è giusto che il lavoro che facciamo ci porti anche in altri posti, a fare nuove esperienze e vedere nuove cose. Grazie Giorgia. Grazie. Grazie mille anche a voi. Grazie a Giorgia Sottana. E così abbiamo raccontato anche la storia senza lieto fine della nostra nazionale femminile di basket all'europeo. È finita con il 7° posto, ma al mondiale si andava solo arrivando nei primi 6. Ci fermiamo qui. C'è chi chiede dello stipendio di Ibrahimovic. Guardate che pagarlo un anno in realtà potrebbe essere un meraviglioso gettone per accelerare il proprio progetto. Per questo dico, potrebbe servire al Milan, al Napoli, ne parlavamo prima, ma non è detto che oggi Ibrahimovic sia inarrivabile per il calcio italiano. Noi ci fermiamo qui. Io ringrazio Andro Mercuco, le sue voci, Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Pietro Lacorte e Andrea Roccabella, che si sono alternati in regia. Tutti Convocati Weekend torna domenica prossima alle 17, mentre Tutti Convocati torna domani dopo il GR delle 14. Ciao Carlo. Ciao Giovanni, a domani alle 14. A domani. Abbiamo visto abbastanza. Ciao a tutti. Saluti.